Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, c'è la previsione del Fondo Monetario Internazionale che, al di là delle stime sul 2020, dico al di là perché sappiamo che con una situazione così incerta le stime sono chiaramente provvisorie, dice sostanzialmente per quello che riguarda l'Italia un meno 12,8% del PIL quest'anno e un rimbalzo del più 6,3% nel 2021, che chiaramente sarà un rimbalzo parziale, e quindi i livelli del 2019, stante anche queste previsioni, non si vedranno prima del 2022. Però è abbassato le stime sul PIL mondiale, dice sostanzialmente che in due anni verranno persi 12.000 miliardi di PIL. L'area euro meno 10,2%, noi facciamo peggio, gli USA meno 8%, la Germania meno 7,8%, la Francia come noi meno 12,8%, la Spagna identica a noi meno 12,8%, e quindi Francia, Spagna e Italia sono sostanzialmente identiche secondo la stima del Fondo Monetario Internazionale, un crollo del PIL del 12%, meglio in Germania un crollo tra virgolette solo del 7,8%. Poi la Germania è prevista crescere del 5,5% l'anno prossimo, mentre la Francia del 7,3%, noi del 6,3% e la Spagna 6,3%, la Spagna identica a noi. Però al di là di questo, la cosa che probabilmente diventerà anche il titolo principale delle stime del fondo riguarda la valutazione. Siamo di fronte alla peggior recessione dal 1929. Lo ha detto Gita Gopinath, che è il capo economista del Fondo Monetario, appunto la peggior recessione della famosa grande recessione del 29. Il debito pubblico a livello mondiale è previsto salire ai massimi di sempre, superando anche il picco post seconda guerra mondiale. Lo dico perché poi, al di là delle percentuali delle cifre, a mio avviso i riferimenti storici servono più di tante altre analisi a capire la situazione in cui ci troviamo. Partiremo da lì per capire le ricette, tra virgolette, nel senso che si discute ancora se sia meglio una riduzione come manovra italiana, in questo caso, del cuneo fiscale, quindi delle tasse in busta paga, oppure dell'IVA, oppure invece puntare in maniera ancora più forte sugli investimenti. Ora, non è che le cose si escludano tutte necessariamente, però non riesci neanche a tenerle tutte e tre assieme, nel senso che le risorse sono limitate, e quindi o soprattutto la parte, diciamo, tra IVA e cuneo fiscale mi sembra abbastanza in alternativa, o sostanzialmente riduci l'IVA o riduci le tasse in busta paga. Il tema investimenti riguarda invece sostanzialmente l'effetto sull'andamento del PIL, cioè poi ne parleremo fra pochissimo con Carlo Cottarelli, con Pietro Garibaldi, e cioè qual è l'effetto più sicuro sull'andamento del PIL: l'abbassamento dell'IVA, sicuri che faccia ripartire i consumi, la riduzione del cuneo fiscale, sicuri che i soldi che potrebbero restare di più in busta paga verranno spesi effettivamente, o gli investimenti, laddove invece l'investimento genera PIL in automatico. Il tema sullo sfondo ha una parola che si chiama incertezza, che è la bestia nera dell'economia. Perché lo dico? Perché in una situazione normale uno potrebbe anche ritenere, a mio avviso, che la riduzione del cuneo avrà una ricaduta immediata sul potere d'acquisto, o che la riduzione dell'IVA avrà una ricaduta immediata sulla vendita di alcuni beni. In una situazione di estrema e grandissima incertezza, anche appunto su cosa succederà in autunno, il mio timore personale è che qualunque riduzione o dell'IVA o delle tasse in busta paga possa in realtà andare direttamente sul conto corrente, cioè non venga spesa, e con la conseguenza che tu avresti avuto un'uscita di soldi pubblici senza una ricaduta sull'economia. Gli investimenti invece una volta che tu li sai fare, quindi snellisci le procedure, qui stiamo ancora aspettando il DL semplificazioni, rendi più agevoli i tempi rispetto a quelli attuali, beh, un investimento in infrastrutture anche piccole, non dico solo le grandi infrastrutture che pure servono, ma pensate all'edilizia scolastica e quant'altro, ha una ricaduta immediata. Di questo parleremo in apertura, anche perché c'è la Corte dei Conti che oggi dice due cose. Dice, da un lato, non è più procrastinabile l'investimento in infrastrutture, dall'altro che anche il taglio delle tasse non è più rinviabile. Poi aggiunge la Corte dei Conti, l'Italia non è stata in questi anni la cicala di Esopo, nel senso che fa un'analisi, poi l'ascolteremo, tra entrate e uscite al netto degli interessi che paghiamo sul debito, cioè come se una famiglia facesse il calcolo di quanto spende rispetto a quanto quanto ha di incassi al netto degli interessi che paga sul proprio mutuo, beh, si vede che l'Italia in realtà ha avuto un avanzo primario, cioè ha sempre speso meno rispetto a quanto fossero i suoi incassi. Certo che poi pesano gli interessi sul debito, sappiamo che sono più o meno 80-85 miliardi di euro l'anno di interessi che paghiamo sul debito contratto, quindi sui BOT e BTP che abbiamo emesso sul mercato e da qui raccolta appunto a un rendimento. Poi la Corte dei Conti critica anche quota 100 e il reddito di cittadinanza. Ora, sul reddito personalmente ritengo che come misura di welfare sia buona in questo periodo, non ho capito perché nessuno voglia toccare quota 100, non mi ha mai convinto, ma in questo momento in cui abbiamo problemi di finanza pubblica che si protrarranno, secondo me continuare con quota 100 è un lusso che non ci possiamo permettere. Poi, voglio dire, uno la pensi come vuole, anche perché il problema non mi sembra in questo momento la permanenza sul luogo di lavoro, mi sembra la possibilità di andare sul luogo di lavoro, cioè di non avere licenziamenti o cassa integrazione come purtroppo ci attendiamo da settembre in poi. Comunque, di questo parleremo, poi parleremo anche della scuola. Qualcuno mi dirà subito: ah no, di nuovo la scuola. Guardate, domani c'è la conferenza unificata. Il Sole 24 Ore ha qualche anticipazione sulla bozza, ma soprattutto questa mattina sono intervenuti a 24 mattina il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, che ha detto: mancano le indicazioni sul numero di ore da erogare. La lezione il sabato non è né un problema né una soluzione. E poi a effetto giorno invece è intervenuta l'assessore della regione Toscana alla formazione e lavoro, che però è anche coordinatrice della commissione istruzione e conferenza delle regioni, quindi l'interfaccia del governo, si chiama Cristina Grieco, dicendo: attenzione, non abbiamo ancora delle linee guida chiare. Ecco perché continuiamo a battere sul tema di quando e come verranno fornite le linee guida, nella speranza che poi il ministro Azzolina non lasci tutto, cioè la patata bollente non venga lasciata, diciamo, solo nelle mani dei presidi o delle singole dirigenti scolastici. Cioè, abbiamo avuto indicazioni del governo su tutto in questi mesi, datele anche sulla scuola. Per quello che riguarda i mercati finanziari, invece, in una giornata appunto che tra Fondo Monetario e Corte dei Conti sicuramente non è una giornata allegra, è ovvio che oggi i mercati seguono quelle che sono le previsioni. Il calo è pesante, meno 3,20% a Milano, meno 2,70% a Parigi, meno 3,20% a Francoforte, meno 2,50% a Londra, meno 2,50% il Dow Jones. Le stime del Fondo Monetario, ripeto, quando tu dici la peggior crisi della Grande Depressione del 29 hai già detto tutto, e i debiti più alti anche rispetto al secondo dopoguerra, insomma, hai detto appunto molto di più di quanto dicono i numeri, ed è immaginabile una reazione così negativa. Cedono tutti i titoli e i settori, sia industriali, Tenaris meno 5,70, che finanziari, Mediobanca meno 5,60, Case New Holland, CNH meno 5,40, Exxon meno 5,20, Pirelli meno 4,90, come il Banco BPM, Saipem meno 4,40, come Eni, e Fiat Chrysler e Unicredit, il 4% lo perde Azimut, A2A, Banca Mediolanum, Leonardo e Amplifon, e Azimut forse l'ho già detta, e anche Fiat l'avevamo detta, no, che stanno variando così velocemente che ho difficoltà a leggere le variazioni percentuali. Interpump meno 4, Buzzi meno 3,80, Banca Generali meno 3,70, mi fermo con chi perde più del 3%, Poste meno 3,70, Inuit meno 3,5, Fineco meno 3,5, Ubi meno 3 come Moncler e Recordati. Di positivo non c'è niente, chi perde meno sono Italgas meno 0,70, Enel meno 2%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, alcuni ascoltatori che mi chiedono, però l'ho spiegato molte volte, il reddito di cittadinanza secondo me è una misura corretta come elemento di welfare, cioè per quello che era il reddito di inclusione. È una misura che non servirà a nulla e non sta servendo a nulla e sta facendo solo sprecare soldi pubblici come politica attiva del lavoro, cioè navigator e i centri per l'impiego. Ma lo dicevamo fin dall'inizio, non è con il navigator che crea il lavoro si crea se ci sono i fatturati delle imprese che aumentano e devi assumere, punto e basta. Non è che ci sono tanti. Altra cosa è dire che in uno Stato come l'Italia ci debba essere una forma di sussidio per le fasce più deboli sotto la soglia di povertà relativa e di povertà assoluta che serve da ammortizzatore sociale. E quello, voglio dire, c'è anche in altri paesi. Secondo me sbagliò il precedente governo Gentiloni a fare un reddito di inclusione troppo debole. È troppo tardi, ma il principio era giusto, così come, ripeto, a mio avviso è giusto che vi sia il reddito di cittadinanza per come cuscinetto di welfare. So. Dunque, preoccupano alcuni sul coronavirus, segnalo solo oggi un aumento di record di casi in India, 16.000 casi solo ieri, però sono numeri che vanno presi un po' con le pinze, perché i decessi in India sarebbero 6 volte in meno rispetto alla media mondiale, e qui bisogna capire come vengono contati, perché con 16.000 nuovi casi ci sono stati solo 465 decessi. A New York è stata cancellata, ma era immaginabile, la maratona di New York. E invece per quello che riguarda i temi europei, la maggior parte del dibattito si concentra sul Fondo Monetario Internazionale. Faccio solo notare che la vicepresidente della Commissione Europea, Margrethe Vestager, ha detto che sulla web tax è necessaria a causa delle facilità con cui molte grandi aziende tecnologiche, soprattutto americane, riducono al minimo i loro contributi in Unione Europea, cioè le tasse che pagano, oltrepassando i limiti del diritto europeo, e molte di queste aziende sono americane. Ha indicato un lungo elenco di casi antitrust e fiscali contro Apple, Amazon e Google. Intanto il premier francese Macron ha incontrato il premier olandese Mark Rutte, e il primo ministro olandese ha detto: abbiamo sempre saputo trovare degli accordi costruttivi. Abbiamo la tempra europea, sappiamo che insieme siamo più forti, sono convinto che troveremo un terreno d'intesa sul piano di rilancio europeo, quindi sul recovery fund. In Germania è arrivata una buona notizia, nel senso che la fiducia delle imprese tedesche è cresciuta molto a giugno, a maggio era salita a 79 punti, a giugno è salita a 86,2 punti. Sono segnali. Ecco. Tant'è che anche il capo economista della BCE, Philip Lane, ha detto che si vedono i segnali di ripresa nell'economia dell'area euro, ma l'entità della contrazione è stata così forte che l'attività complessiva rimarrà molto al di sotto del livello pre-crisi, e il rimbalzo iniziale riscontrato in queste settimane non rappresenta necessariamente un valido parametro sulla velocità e la robustezza del recupero. Traduco: il timore è che vi sia stato, da questo punto di vista, un rimbalzo più forte di quello che poi vi sarà, come dovuto a un effetto elastico, non dico al rimbalzo del gatto morto, che è un'espressione americana per parlare di un rimbalzo fittizio della borsa, ma che tu, avendo compresso tutti i consumi per 3 mesi, hai avuto consumi, ma anche la produzione, ci mancherebbe, il timore che tu abbia avuto un rimbalzo più forte di quello che poi sarà quando il mercato si assesterà. Speriamo di no, che devo dire. Poi c'è la Banca d'Italia, veniamo all'Italia, in cui stima un PIL nel primo trimestre che farà calare il nord-ovest del paese del 6%. Attenzione che il primo trimestre aveva gennaio e febbraio che erano normali e poi marzo che non lo fu. E poi c'è stato un crollo dei fatturati delle imprese lombarde, era un rapporto sulla Lombardia della Banca d'Italia. Meno 25% è l'attesa del fatturato nel primo semestre dell'anno. Le riduzioni più marcate si sono avute nelle calzature in Lombardia, meno 24%, legno meno 19% rispetto appunto ai primi 6 mesi del 2019, abbigliamento meno 19%, siderurgia meno 12%. Invece chimica e alimentare sono molto, chimica vuol dire anche settore farmaceutico oltre che la chimica, sono i due settori che sono rimasti, per fortuna hanno scampato ogni tipo di crollo del PIL, mentre anche l'alimentare ha avuto un calo molto molto più contenuto, meno 3,7%. Bene, andiamo a vedere, passiamo alle misure. Dal DL rilancio a intanto come stanno andando le rinegoziazioni dei mutui e le moratorie sul credito, per passare però poi in primis all'analisi delle proposte alla luce di quanto ha detto oggi sia il Fondo Monetario che la Corte dei Conti. Alcuni dati di aggiornamento sono salite a oltre 2.600.000 per un valore di 280 miliardi. Le moratorie sui prestiti hanno superato quota 690.000 le richieste invece di garanzia, e anche in questo caso attraverso Garanzia Italia di Sace sono state concesse 1 miliardo di euro su 100 richieste ricevute. Invece le 690.000 richieste riguardano i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese, quelle che sono state presentate al fondo di garanzia, e sappiamo che 600 su 690, sì, 690.000 rappresenta la stragrande maggioranza, è per prestiti fino a 25.000, poi passati a 30.000 euro. Bene invece vanno le moratorie sui prestiti, che hanno toccato appunto quasi 280 miliardi per un valore di 2.600.000. Ancora la Cassa Depositi e Prestiti ha rinegoziato 80.000 mutui con gli enti locali, liberando 800 milioni di euro di risorse. Un dato invece che deve far riflettere: l'anno scorso si sono dimesse dal lavoro 37.000 neomamme contro solo, tra virgolette, 13.000 neopapà, a dimostrazione che poi la natalità, i figli, come abbiamo visto anche durante la chiusura della scuola, si scaricano quasi sempre sulle donne. Vuoi perché lo stipendio è più basso rispetto a quello maschile? Vuoi per altri motivi? Ma insomma, hai voglia di parlare di uguaglianza e pari opportunità. E solo il 21% delle richieste di part-time o flessibilità lavorativa presentate da lavoratori con figli piccoli è stato accolto. I dati sono del 2019, vedremo se invece andranno in maniera diversa nel 2020. Però adesso passiamo al tema di oggi, e cioè l'allarme potentissimo del Fondo Monetario Internazionale da un lato e la relazione della Corte dei Conti. Allora, partiamo andiamo in pubblicità, che c'è il meteo, e poi partiamo dall'analisi della Corte dei Conti e il titolo, come l'ho chiamato, del Fondo Monetario Internazionale, la peggiore recessione dal 1929. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Dunque, Fondo Monetario e Corte dei Conti, ringrazio intanto per averci raggiunto in collegamento l'economista Pietro Garibaldi, che tra l'altro è anche direttore del Collegio Carlo Alberto. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera a voi. Allora, stiamo aspettando che arrivi Carlo Cottarelli, però ascoltiamo intanto che cosa ha detto oggi la Corte dei Conti sul debito. Che ha detto sostanzialmente serve, è necessario fare più debito, ma serve una credibilità nell'utilizzo dei soldi che poi vengono presi a debito. La situazione è grave e la strategia della ripresa sia rapida. E poi andiamo sulle parti, diciamo, propositive. Il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, ha detto: nell'attuale contesto di emergenza la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo fondamentale. Non è più procrastinabile lo sviluppo, un solido sviluppo infrastrutturale del paese, e quindi sviluppo delle reti sia fisiche che digitali. E poi appare non più rinviabile un intervento in materia fiscale. Sentiamo appunto sul taglio delle tasse. Appare non più rinviabile un intervento in materia fiscale che riduca per quanto possibile le aliquote sui redditi dei dipendenti e anche dei pensionati, che pur essendo fuori dal circuito produttivo, frequentemente sostengono le generazioni più giovani, oltre che le imposizioni gravanti sulle imprese alle quali sono affidate le concrete speranze di un rilancio del Paese. L'alleggerimento della fiscalità potrebbe evitare, soprattutto in un momento di crisi globale, la costante erosione del potere d'acquisto delle famiglie e un'ulteriore contrazione del mercato interno che non favorisce il gettito erariale. Sul fronte delle entrate, inoltre, non è stato ancora risolto in senso positivo il contrasto all'evasione fiscale, con conseguente mancato recupero di quanto dovuto e senza effetti benefici sulla produzione di ricchezza e sull'incremento dei consumi. E poi l'altro passaggio, ha detto la Corte dei Conti che su quota 100 e sul reddito di cittadinanza i risultati sono al di sotto degli obiettivi. Ma ha detto: attenzione, non è vero che l'Italia è la cicala di Esopo raccontata da molti paesi europei, perché al netto di quanto paghiamo sugli interessi sul debito, quindi l'avanzo primario, come si chiama in gergo, vi è sempre stato in questi anni. Possiamo rilevare che l'Italia non è stata la cicala di Esopo che molti in Europa hanno creduto. Negli ultimi 30 anni, al netto delle criticità e dei fenomeni di malcostume, non si è speso complessivamente più di quanto entrava nelle casse dell'erario. La prova è nei numeri dell'avanzo primario, con l'esclusione della spesa per gli interessi sul debito, che dipende piuttosto da fattori esterni e resta il problema cruciale del nostro sistema economico. Sotto il profilo dell'analisi contabile, va posta in evidenza come la gestione del bilancio statale sia stata caratterizzata nel 2019 da andamenti positivi sul fronte delle entrate e delle spese, segnando una virtuosa inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti. Desidero infine ricordare che il Paese possiede ancora tanta bellezza e qualità da preservare per le generazioni future. Penso al settore turistico, al manifatturiero, a quello industriale, capace di eccellenze ineguagliabili. La nostra, nonostante tutto, è e sarà sempre una grande nazione. Allora, Garibaldi, al di là del richiamo patriottico, diciamo così, della Corte dei Conti, e alla luce del titolo di oggi del Fondo Monetario Internazionale, la peggiore recessione dal 1929, il debito pubblico a livello mondiale più alto, anche più alto del picco post Seconda Guerra Mondiale, l'Italia che crolla nel PIL come Francia e Spagna quest'anno 12,8%, Spagna e Italia 12,7%, siamo lì, la Francia, la Germania farà meno 7,8, la Francia dovrebbe recuperare un po' di più l'anno prossimo, il 7%, l'Italia il 3%, come la Spagna. Calo due cifre anche per il PIL britannico, meno 10% quest'anno e più 6% l'anno prossimo. Colpo catastrofico per il mercato del lavoro. A questo punto si sta pensando a come utilizzare i soldi che si stanno liberando, che un po' perché non abbiamo le clausole di salvaguardia sull'IVA, un po' perché possiamo sforare il deficit, un po' perché arriverà, spero, i soldi del MES e poi il recovery fund, tassi bassi. Allora, i soldi però non sono infiniti e le ipotesi sono sostanzialmente tre. Li giochiamo tutti su investimenti infrastrutturali, li utilizziamo invece per ridurre le tasse, però attenzione perché lì deve essere un elemento strutturale, non solo congiunturale, quindi cuneo fiscale, o sulla riduzione dell'IVA, anche lì però la misura è vista come temporanea. Lei quali di queste tre soluzioni, immaginando che i soldi non sono tutte in alternativa, per carità, tu puoi fare gli investimenti infrastrutturali, fare anche o IVA o cuneo, ma tutte e tre assieme non ce le fai, quale ritiene prioritaria quantomeno? Io personalmente ritengo prioritaria una combinazione di delle due che lei ha detto. Senz'altro è necessario avere investimenti infrastrutturali, questo è, probabilmente sono tutti d'accordo, e più vanno a incidere sulla struttura produttiva del paese e meglio sono. Ovviamente lì è un tema di celerità e di riuscire in qualche modo a mettere poi i soldi sui cantieri in tempi relativamente brevi, perché sappiamo che uno dei problemi grossi è che anche se decidiamo un investimento poi ci mettiamo 2 anni per iniziare a effettuarlo, in particolare se sono infrastrutture. Sul lato fiscale ritengo che appunto non è che abbiamo risorse infinite, abbiamo un disavanzo che va oltre 10 quest'anno, un debito verso 160, bisogna ragionare in ottica di riforma del fisco, di cui anche in parte ne parlava il Presidente della Corte dei Conti, perché anche i soldi europei, è evidente che i dettagli non li abbiamo ancora, ma richiedono un programma di riforme, non sono soldi che possono essere spesi per qualunque tipo di riduzione fiscale. In quest'ottica io ritengo che si debba tendere a ridurre il cuneo fiscale, perché? Perché puntare sui fattori produttivi. I fattori produttivi sono lavoro e capitale, le infrastrutture, aumentiamo lo stock di capitale, e puntare sul lavoro, su quello, ahimè, siamo tra i più alti. Tutto le stime del cuneo fiscale, cioè la differenza tra il costo del lavoro delle imprese, quanto percepisce il lavoratore netto in busta paga a fine mese, sono tra i più alti nei paesi OCSE. In quel senso siamo davvero tra i peggiori. Cioè, se ho ben capito, il suo ragionamento, Garibaldi, cioè, infrastrutture sì, però visto che noi abbiamo un cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto costi all'azienda e quanto prendi in busta paga al netto, che è la più alta, tra le più alte nei paesi OCSE anche a livello europeo, ma mentre sull'IVA abbiamo una situazione simile al resto d'Europa, in alcuni casi qualche un punto, due punti in meno, la discrepanza più forte è proprio sulla riduzione delle tasse sul lavoro. Obiezione che le possono fare: io riduco il cuneo fiscale, però vista l'incertezza che domina totalmente in questo momento e che è una bestia nera dell'economia, la famiglia che riceve più soldi in busta paga non li spende, perché non ha nessuna visione sul futuro, ha una visione solo a breve. E quindi ho, diciamo, ridotto le entrate fiscali, ho aumentato il mio deficit e debito, ma non ottengo un effetto sui consumi e sull'andamento del PIL. Allora, questa osservazione, che ha una logica, è a fortiori è ancora più vera con l'IVA, perché l'IVA non mette, se riducessimo l'IVA, non mettiamo nessun euro in tasca agli italiani. Se invece riduciamo il cuneo fiscale, poi dobbiamo parlare dopo, perché nel dettaglio è importante capire come si possa fare, e se riduciamo il cuneo fiscale almeno potenzialmente mettiamo più euro in tasca alle famiglie che potenzialmente arrivano a fine mese. Mentre se abbassassimo l'IVA, non necessariamente questa riduzione di IVA determina un abbassamento dei prezzi e una voglia di spendere alle famiglie che tanti soldi non hanno per arrivare a fine mese. Quindi questo, la stessa obiezione che lei ha fatto vale anche per la riduzione dell'IVA. Però bisogna trovare anche delle altre risorse. Cioè, quando si parla di riforma fiscale, qui stiamo sempre parlando di abbassare, bisogna anche avere il coraggio di ritoccare qualcos'altro. E questo è uno dei temi più delicati, perché se noi investiamo in infrastrutture, spendiamo, aumentiamo il deficit, riduciamo il cuneo fiscale, poi magari se abbiamo ancora tempo parliamo di come si fa, di nuovo aumentiamo il deficit. Bisogna avere il coraggio anche di rivedere in qualche modo la struttura fiscale dei paesi e toccare qualche fattore produttivo che in Italia ahimè, è toccato meno che in altri paesi, e personalmente penso che si debba guardare anche alle abitazioni. Dunque, chi mi chiede se veramente io ho detto che spero che arrivino i fondi del MES, sì, lo confermo. No, lo spero, ma non è che ha detto una bestemmia, cioè il MES, quello, noi abbiamo già pagato una parte del MES, ci arriverebbero, devo ripeterlo ogni volta, va bene, più o meno 14 miliardi, per trovare quei soldi sul mercato spenderemo mezzo miliardo a tassi correnti all'anno in più, cioè per i prossimi 6 anni. Poi, chi è contrario al MES mi spiega che cosa ha letto sulle condizionalità. Parlo del MES, quello per motivi Covid, non del MES generale di cui non voglio neanche sentir parlare. Vorrei capire quali condizionalità. A chi mi dice poi delle condizionalità, guardate che se poi il tuo debito non regge, le condizionalità te le pone il mercato, sembra quasi che le condizionalità le ponga solo il MES, ma ci ricordiamo di cosa capitò nel 2011-2012, se lo spread è basso è grazie alla Banca Centrale Europea, non grazie al fatto che non ci siano condizionalità. Bisogna studiare anche delle volte le cose, non solo parlare per slogan, siccome il MES non piace, ho già detto chiamatelo punto MES, ma insomma utilizziamolo. E bisogna capire, immagino tutti quelli che mi scrivono, come andremo a trovare quei soldi sul mercato, come giustificheremo il fatto che non ci servono 14 miliardi di euro ma vogliamo il recovery fund e via così. Poi se avete altri canali, benissimo, no? Basta che siano praticabili, non solo perché non piace il MES. Arriverà la troica, non c'è nessuna troica prevista, dopodiché, ripeto, attenzione che la condizionalità ti arriva anche dagli altri. Ho capito che qualcuno dice vaffa al MES, se riesce a argomentare anche il tema, perché il vaffa a me di per sé stesso non è mai piaciuto, non vuol dire nulla, siamo tutti capaci di dire vaffa. Poi la parte costruttiva qual è? L'obbligazione perpetua senza rendimento della Castelli, che è una follia, ma dai, per favore. Comunque, Garibaldi, resti con noi, andiamo sul traffico un attimo. Focus Economia. Allora, nel frattempo vi do anche, visto che continuano alcuni a insultare sul MES, Regling, commissario europeo, non è sottoscritto, ha stimato che un prestito a 10 anni per 37 miliardi, ricordo che noi abbiamo già versato 14 miliardi dentro il meccanismo europeo di solidarietà e quindi tu puoi fino al 2% del PIL, 37 miliardi sono più o meno il MES per il Covid, quello senza condizionalità, puoi utilizzare fino al 2% del tuo PIL, il PIL italiano è più o meno 18-17, per quest'anno sarà più basso, quindi 37 quella là. E allora 37 miliardi, il risparmio su 10 anni, così faccio contento l'ascoltatore, calcolo della Commissione Europea di interessi dell'Italia, che non pagheremo visto che il MES ha tassi di interesse molto molto bassi, di 7 miliardi in 10 anni. Quindi mi correggo, ma è meglio, sono 700 milioni all'anno. Se non gliene frega niente di 700 milioni all'anno di migliori interessi, allora ce li metta lei. O ditemi dove li troviamo, tra Navigator e Quota 100, dove li troviamo 700 milioni all'anno in questo periodo, che non fregano nessuno. Va bene, solo per un motivo ideologico che si chiama MES, che vi hanno detto che il MES è brutto e cattivo, qualcuno mi scrive dalla Grecia, ma è un'altra cosa, dovete leggerle i dettagli. Questo è sono fino al 2% del PIL che si può utilizzare per spese dirette o indirette di carattere sanitario dovute all'emergenza Covid, quindi anche le scuole, per mettere in sicurezza le scuole, per essere ancora più chiaro. Comunque, Garibaldi, le altre obiezioni che vengono, che sto leggendo invece, ecco, qualcuno mi scrive bisogna stampare soldi, eccolo qua, guardi che cosa sta facendo la BCE secondo lei in questo momento col piano di acquisti che tiene lo spread a 160. Mi dica, Garibaldi. Aggiungevo una cosa perché come ha detto, l'unica condizionalità che esiste è quello che ha detto lei, che devono essere spese legate all'emergenza sanitaria. Ma immaginiamo di rifare tutti i punti soccorsi in Italia, quello è un investimento infrastrutturale, chi che può dire che non c'è bisogno? E i soldi che avevamo destinato, che sono pochi purtroppo agli investimenti, quello li usiamo per altre cose, è una cosa semplicissima. Ma quindi è come una famiglia, mi scusi, è come una famiglia che ottenesse, poniamo i prestiti adesso, quelli stragarantiti al 100% dello Stato, è ovvio che tu quei 30.000 euro, siccome li hai a tasso bassissimo, che non troveresti mai sul mercato, li usi e altri 30.000 euro li spenderai, esatto, per altro. Cioè, voglio dire, tu inizi a mettere a posto i pronti soccorso e anche le scuole, perché l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza è inclusa nei soldi del MES, e gli altri miliardi li liberi per altro, li liberi per cuneo fiscale come vuole Garibaldi, o per le infrastrutture come vorremmo io e Garibaldi. Però, detto questo, l'obiezione che viene fatta a Garibaldi sul tema infrastrutture, quella sul cuneo gliel'ho già fatta io, sì, ho capito, ma qui non abbiamo nessuna garanzia che vi sia un processo di snellimento di carattere infrastrutturale delle procedure, quindi puntiamo tutto su un cavallo che però rischiamo di tenere imbrigliato e non far correre, per usare questa... È un'osservazione di nuovo ragionevole, e diciamo che l'emergenza Covid e l'emergenza italiana hanno dimostrato che in realtà, sotto certe condizioni, le cose possono accadere. Pensiamo al ponte di Genova. Al ponte di Genova in 2 anni io non capisco come mai si è riusciti, in qualche modo c'erano anche lì le leggi, la burocrazia esisteva, ma siamo riusciti a mettere il cantiere in fretta e adesso abbiamo già il Presidente che passeggia sul ponte. Okay. Quindi è possibile. Allora, qualcuno continua a dirmi che non sono credibile. Guardi, se la prende col commissario Reding, è lui che ha fatto il calcolo, 37 miliardi con un risparmio in 10 anni di 7 miliardi rispetto a quello che costerebbe trovare sul mercato, e quindi sono 700 milioni l'anno. Cosa vuole da me? Saluto anche, per averci raggiunto in collegamento, però, il professor Carlo Cottarelli, molto noto perché non è stato solo commissario alla Spending Review, ma è stato anche per anni direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale per Italia, Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino, ed è direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Buonasera Cottarelli. Buonasera. Allora, le riassumo intanto quello che diceva il professor Garibaldi, che è in collegamento con noi, che dice, vabbè, tra IVA e cuneo, meglio il cuneo, in parallelo con una riduzione, con un aumento delle spese infrastrutturali. Però vorrei prima un suo commento su quello che ho chiamato il titolo domani dei giornali, cioè il Fondo Monetario che dice la peggior crisi dal 29 e il debito più alto anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, che era già monstre. Sì, certo. Esagera il fondo o insomma era inevitabile? Ma non credo che esageri, però in realtà non si sa, cosa ancora troppe, è una crisi nuova, di tipo nuovo, nel senso che le pandemie che c'erano state nel passato, il mondo era molto diverso. 100 anni fa la spagnola, chi si ricorda degli effetti economici della spagnola, perché lì si preferiva sacrificare 50-70 milioni di persone per non bloccare l'economia, perché questo purtroppo è quello che è successo all'epoca. Chi si ricorda gli effetti economici della spagnola? Però sono morti 50-70 milioni di persone. Adesso giustamente si sta più attenti alle persone e l'economia, temo, ne soffre di più. Però non ci sono chiari precedenti a cui guardare. E quindi l'incertezza è enorme. Diciamo, come ordini di grandezza, sì, sono quelli. In termini di debito pubblico, per esempio, l'Italia è chiaro che si arriva al picco storico dal 1861. Allora, seconda domanda, poi arriviamo invece alle proposte, però sto riavvolgendo il nastro. Non so perché si è scatenata una rida di insulti sul MES. Allora, mi dice la sua posizione sul MES. Io citavo ancora, lo so Cottarelli, però sempre qua siamo. Io citavo ancora, lo potrei dire anche io sulla spending, stiamo ancora parlando della spending dell'Italia, ancora. Ecco, però su 37 miliardi Klaus Reding, commissario europeo, ha calcolato che l'Italia risparmierebbe 7 miliardi in 10 anni, quindi 700 milioni all'anno invece che trovarli sul mercato. Molti mi dicono, ma allora perché non lo chiede nessuno? Il MES è un cavallo di Troia, un cavallo di Troica, per usare l'espressione. Vorrei sentire ancora la sua opinione sul MES. No, gli altri non lo chiedono, e anche la Grecia non lo chiede, perché ne ha meno bisogno di noi, perché quest'anno la Grecia ha poche emissioni sul mercato di titoli di Stato, essendosi finanziata negli anni precedenti proprio dalla Troica a tassi di interesse bassi e molto a lunga scadenza, con una condizionalità molto pesante, come sappiamo bene. Però insomma, al momento ha poco bisogno di prendere soldi a prestito. Spagna ha uno spread e tassi di interesse a lungo termine molto più bassi dei nostri. Forse il Portogallo sarebbe, ma noi stiamo, diciamo, in termini di quantità di emissioni e di tassi di interesse che che paghiamo di gran lunga siamo quelli che ci guadagnano di più. Sul fatto che ci possa essere una trappola, ma la Commissione europea, l'Unione europea non ha bisogno di questo per le trappole. Potrebbe, siete parlato molto del rischio che noi, anzi del fatto che noi entreremmo in questa supervisione rafforzata, enhanced surveillance, ma quella la Commissione potrebbe deciderci di metterci in sorveglianza rafforzata senza il MES, da oggi potrebbe farlo, quindi non hanno bisogno di questi tocchi. Sì. Oltre che il fatto che i mercati ti mettono sotto sorveglianza se non credono, se non ti ritengono credibile, MES o non MES. Ho detto che Klaus Regner, il commissario europeo, mi correggo, questo ci mancherebbe, è il direttore del MES, che ha fatto appunto le stime su questo. Professor Garibaldi e professor Cottarelli, restate con noi oggi, R24, e poi volevo sentire la terza parte, diciamo, dell'analisi anche da parte di Cottarelli, quindi cuneo, IVA o investimenti infrastrutturali, non che tutto sia in alternativa, ma neanche che tutto si possa fare in maniera realistica. 349-238-6666 per SMS o MSS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Non basta essere verdi per essere ecologici. Io voglio l'ecologico vero. Per questo scelgo Winnis. Tutti i prodotti della linea Winnis sono ecologici, efficaci e non costano di più. Fai come me. Provali anche tu. Winnis. Per un mondo più pulito. Avvicinatevi. Non posso alzare la voce, altrimenti se ne accorgono. Le nostre Land Rover non sono abituate a sentir parlare di tranquillità perché pensano sempre solo ad avventure e a superare ostacoli. A portarvi ovunque. Shh, eccole che arrivano. Con Land Rover Jump Plus hai tutta la tranquillità del valore futuro garantito più alto di sempre. Range Rover Evoque da 350 euro al mese, TAN fisso 2,95, TAEG 3,49. Salvo approvazione della banca fino al 30 giugno. Messaggio pubblicitario, info e note legali in concessionaria. Da Italy festeggiamo l'onomastico. Offerte fino al 50% e tanti prodotti di qualità a un euro. Ti aspettiamo da Italy fino al 5 luglio, in negozio e online. Come sanificare e proteggere l'ambiente di lavoro? Affidati a Polti, da 40 anni esperto del vapore. Grazie al sistema brevettato, Polti Sunny System disinfetta superfici e tessuti. Immediato, pratico, sicuro. È vapore secco surriscaldato fino a 180 gradi. Scopri la gamma su poltisunnysystem.it. Polti, il nostro vapore protegge il tuo lavoro. Lavorare con qualcuno è diverso da lavorare per qualcuno. Noi lo facciamo da sempre, camminando in Africa, a fianco di mamme, bambini, medici e infermieri come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM, mediciconlafrica.org. Ciao Mara, ti chiamo dalla mia Opel nuova. E allora, bello essere di nuovo in giro, eh? Certo, e con Opel Protection pago dopo l'estate e il credito è garantito. Parte la super rottamazione Opel, su tutta la gamma fino a 8.000 euro di vantaggi per tutti. Info su opel.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, sono ancora in collegamento con noi per i prossimi minuti Pietro Garibaldi e Carlo Cottarelli. Professor Cottarelli, mancava la terza, diciamo, risposta all'analisi che abbiamo fatto prima anche con Garibaldi, cioè visto che le risorse comunque arriveranno, e non voglio tornare né sul MES né sul Recovery Fund, non saranno illimitate, non lo sono per definizione, come utilizzarle per avere un impatto immediato alla luce anche del Fondo Monetario di oggi. Si dice l'IVA, e l'obiezione è: attenzione, l'IVA potrebbe non spingere necessariamente i consumi. C'è chi dice cuneo fiscale, lì faccio l'obiezione, sì, però con una sfiducia così alta sul futuro anche il cuneo fiscale potrebbe non dare degli effetti concreti sull'andamento del PIL. E gli investimenti, vorrei capire se lei ritiene che le tre cose siano comunque a un certo punto incompatibili, cioè non si possono fare tutte e tre, e quale delle tre preferirebbe? Allora, la prima considerazione è che il modo di usare i soldi del Recovery Fund deve essere concordato con l'Europa, l'Unione Europea, e tener conto delle raccomandazioni che verranno date come parte del semestre europeo. In queste raccomandazioni date un paio di mesi fa non si parla di riduzione delle tasse con questi soldi, anche perché questi soldi sono soldi temporaneamente disponibili. Il taglio delle tasse io credo che lo dobbiamo fare. Se dobbiamo fare un taglio di tasse permanente, io partirei dal costo del lavoro, ma non è di quello che si sta parlando. Qui l'Italia si tratta di soldi che sono disponibili temporaneamente. Il modo più logico per utilizzarli è per investimenti pubblici. Certo, dobbiamo darci una mossa, ma siccome i soldi saranno disponibili il prossimo anno soltanto, insomma, spero che questa volta facciamo qualcosa davvero di serio e ci rendiamo conto che o riusciamo a accelerare la spesa per gli investimenti oppure i soldi finiamo per buttarli via. Ecco, nell'accelerare la spesa per gli investimenti, lei ha in mente una tipologia di investimenti, cioè le grandi opere o gli investimenti di taglio minore? E soprattutto quello che manca è l'attuazione del DL semplificazione, cioè andare con procedura, sì, almeno per le grandi opere, quelle già cantierate, quelle già dove sono state liberate le risorse, abbiamo fatto l'elenco con l'ANCE, e dare corsie privilegiate? Dunque, io non ho niente contro le grandi opere, però insomma ricordiamoci che ci sono anche tante piccole opere che sarebbero utilissime. Come hanno detto Boeri e Perotti, hanno scritto pensiamo in piccolo anche, perché non c'è soltanto il ponte sullo Stretto, no, certo, il ponte sullo Stretto dal punto di vista politico è, cioè uno poi riesce a dire io sono quello che ha fatto il ponte sullo Stretto, va lì, taglia, inaugura il ponte e così via. Però insomma ci sono le linee locali ferroviarie che dovrebbero essere fatte, ci sono le cose che prendono i pendolari, ci sono le strade con i buchi, i ponti che devono essere ripiegati, le scuole con i tetti che cadono, gli ospedali che potrebbero essere rafforzati. C'è una marea di opere piccole che possono essere fatte. Poi facciamone anche qualcuna di grossa, dopo essere stati attenti, ci sono tante opere grosse che dovrebbero essere completate al più presto. Per quanto riguarda le procedure, io mi sono convinto che purtroppo bisognerà cambiare, purtroppo dico, abbiamo continuato a cambiare il codice appalti tante di quelle volte, però temo che sia necessario rimetterci sulle mani, perché sono procedure tipo come quella del ponte di Genova possono essere fatte una tantum, si ignora ogni problema dal punto di vista della concorrenza eccetera, si fa una cosa molto rapida, però usarla come prassi, quindi credo che mettere mano al codice appalti per semplificarlo ulteriormente. Una ultima considerazione, se però si semplificano le cose prima, poi bisogna essere pronti a intervenire rapidamente e pesantemente se ci sono attività di corruzione, però per quello bisogna avere una giustizia penale che funzioni, sono tante cose che dobbiamo sistemare. Allora, un'ultima battuta anche a professor Garibaldi su questo, l'obiezione che può essere fatta diciamo sulle opere infrastrutturali, e la dico in maniera molto diretta, è che il dividendo politico elettorale è molto basso. Vorrei un flash su questo sia da Garibaldi che da Cottarelli, cioè se tu riduci le tasse in busta paga poi hai voglia, vediamo poi se si scaricano sull'economia, ma intanto hai un dividendo di carattere elettorale, di consenso, così come magari sull'IVA. Rimettere a posto centinaia di scuole passa più, è più importante secondo me, ma passa più inosservato. Garibaldi e poi Cottarelli. Certo, c'è, questo è in termini di ciclo politico, se voglio vincere le elezioni devo mettere, ahimè, tristemente penso più a mettere i soldi nelle mani, nelle tasche degli italiani, piuttosto che a investire sul futuro, che vuol dire la scuola, il capitale umano. Ci vuole lungimiranza e ci vuole una visione del paese, quindi io mi auguro che ci siamo entrambi dal governo. Fino adesso ho visto tante chiacchiere e poca visione del paese, speriamo che sia stata una fase interlocutoria. Cottarelli? Beh certo, c'è quel rischio, però insomma io spero che si possa cambiare, che si possa, diciamo, le logiche politiche cambino rispetto al passato, ma è l'opinione pubblica che deve cambiare in qualche modo. Se i politici, noi ci lamentiamo ai politici, ma siamo noi che li eleggiamo. Io spero che ci possa essere, guardando in avanti, un'opinione pubblica che sostenga queste cose che sono più utili al paese. Allora, grazie sia a Carlo Cottarelli che a Pietro Garibaldi. Adesso vorrei dare appena di oggi i dati di aggiornamento della Protezione Civile, ma soprattutto passare all'altro tema che sapete che continuiamo a cavalcare. Domani dovrebbe essere la giornata decisiva, non ci sono delle buone premesse, mi riferisco alle linee guida che il governo dovrebbe dare per la riapertura delle scuole. Non ci sono buone premesse, perché oggi a Radio 24, sia in mattinata che poi a metà giornata, sono intervenuti i rappresentanti prima dei presidi e poi anche invece di chi è la coordinatrice della commissione istruzione della conferenza delle regioni, quindi rappresenta gli assessori all'istruzione delle varie regioni che devono interfacciarsi con il governo e, dicevo, da questo punto di vista non sono ci sono molti scetticismi. Comunque noi, come sempre, ricordiamo quanti giorni mancano alla riapertura della scuola. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Oggi è sabato, è forse il giorno speciale. Oggi è sabato, meno male. Allora, 82 giorni all'ipotetico inizio della scuola, perché qua si parla ancora di ipotesi, tant'è che vedo che il governatore del Veneto, Zaia, ha detto... non è un annuncio, non è una conferma, ma siamo dell'idea di aprire le scuole il 14 settembre. L'assessore a Milano, invece, Paolo Limonta, assessore comunale alla scuola di Milano, dice che potrebbero mancare almeno il 20% dello spazio per accogliere tutti i bambini. Nel frattempo, dicevo, sono intervenuti a Radio 24 questa mattina chi rappresenta l'Associazione Nazionale Presidi, perché il rischio qual è? Lo dico in maniera molto chiara. È che si scarichi sui presidi, sui dirigenti scolastici, tutta la responsabilità, mentre il governo deve dare, come ha fatto nel passato, in questi mesi di lockdown e poi di fase 2, fase 3, deve dare le linee guida in modo da non lasciare completamente smarriti poi i dirigenti locali e anche le amministrazioni locali. Però facciamo una cosa, c'è il traffico, ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La testa di un professionista. A sinistra, il problema dell'acquisto di un nuovo veicolo. Ma è meglio aspettare ancora, a questo punto ci pensiamo dopo l'estate. A destra, guarda che i contributi scadevano il 30 giugno. Cosa? No! Non sempre si può tornare indietro. A giugno Volkswagen Veicoli Commerciali offre 5 milioni di euro di contributi sui veicoli in pronta consegna. Se te li fai sfuggire, perdi fino a 6.000 euro di vantaggi su Transporter e il service plan incluso se attivi il leasing. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. Focus Economia. Allora, i presidi, intanto domani c'è parte la conferenza Stato-Regioni. Antonello Giannelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi e questa mattina con Simone Spezzi e Maria Latella ha detto: attenzione, mancano indicazioni addirittura sul numero di ore da erogare. Il sabato è un finto problema, nel senso la didattica al sabato che non è né il problema né una soluzione. Sentiamo Giannelli. Noi ci aspettavamo delle indicazioni più precise, più specifiche, tanto per dirne una, quello che si può definire il livello minimo di servizio. Si demanda tutto a dei tavoli regionali composti da tantissime persone che credo che avranno qualche difficoltà a dare a loro volta indicazioni concrete e operative. Le linee guida sì, dicono si può andare a scuola il sabato, ma questo lo sapevamo anche prima. Già ci sono scuole che lo fanno e scuole che non lo fanno. Appunto, non è un problema questo e non è neanche una soluzione. Quello che conta, ripeto, è il numero poi di ore di lezione effettivamente erogate. Quindi è questo che manca, perché io non riesco a capire da questo documento se è possibile apportare uno sconto, diciamo così, al numero di ore complessive, purché però siano garantite a tutti o no. E quindi mi verrebbe da dire che comunque il numero di ore è quello che deve essere, allora non riesco a capire quale sia il vantaggio di farlo in 6 giorni o in 5 giorni, tanto insomma sempre quello. Vede, l'autonomia è una gran bella cosa nella quale noi crediamo, l'autonomia scolastica, però il problema è che non è mai decollata da 20 anni in qua, perché sono mancate 2 elementi essenziali. Uno, le risorse, infatti nel piano si dice fate, però poi non si danno le risorse. E secondo, la libertà di gestione dei dirigenti scolastici. E chiaramente ai dirigenti scolastici bisogna dare la libertà di gestire il personale, le risorse economiche, le risorse logistiche in modo più chiaro di come è stato fatto finora, ma finora in questi 20 anni intendo. E su questi 2 punti purtroppo non ci siamo. Ecco, una cosa la voglio dire per essere corretti anche nei confronti del governo attuale e dei governi precedenti: la mancata autonomia dei dirigenti scolastici, ha ragione Giannelli, è dovuta anche, Giannelli lo sa benissimo, a una resistenza enorme dei sindacati della scuola, che non rappresentano solo gli insegnanti, e dall'idea appunto che dirigente manager non è mai passata, perché non piace, rischierebbe a mio avviso di diventare troppo autonomo e magari agire in maniera troppo discrezionale, che vuol dire anche meritocratica delle volte, perché tu devi avere la possibilità anche di premiare e non premiare. Comunque questo è un tema su cui fallì anche il progetto di Renzi di Buona Scuola. Andiamo invece sulla Cristina Grieco, che è assessore all'istruzione della Regione Toscana e coordinatrice della Commissione istruzione alla Conferenza delle Regioni, che appunto domani inizierà a interfacciarsi con il governo. È intervenuta a effetto giorno con il nostro Alessio Maurizi. Quello che ci preoccupa del piano, insomma, cercheremo di interloquire con il Ministero prima di domani, ma, quindi per arrivare a un testo condiviso, è che è molto generico e che soluzioni diciamo che possano in qualche modo risolvere le situazioni di criticità degli spazi, quindi laddove non sia possibile distanziare, richiedono delle risorse, quindi ci vuole organico, però ci devono essere dei punti fermi. Per esempio, il punto sul distanziamento adesso è stato chiarito, altrimenti per noi sarebbe stato un elemento di criticità enorme, perché è il punto di partenza. Il distanziamento, un metro da bocca a bocca dell'alunno e due metri con il docente, quindi almeno questo ci permette di individuare i casi di criticità, perché è il punto di partenza. Fino a stamani noi non avevamo neanche questo, dico che è il punto di partenza perché bisogna individuare quali sono le criticità, cioè i casi in cui non c'è possibilità di garantire il distanziamento. A seconda di quanti sono in percentuale questi casi, è chiaro che il problema assume dimensioni diverse, quindi si parte da lì. E poi appunto alcuni paletti vanno messi, perché insomma si fanno esempi di organizzazione, certamente utile, ogni dirigente sa come, che cosa ha a disposizione per spazi alternativi, però come giustamente il buon senso ci fa dire, bisogna pure fare scuola, quindi bisogna dare un perimetro, una cornice all'interno della quale le scuole si possano muovere, però non dando tutta la responsabilità a dirigenti scolastici. Questo ci crea un po' di preoccupazione. Allora, Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, le preoccupazioni dei presidi e anche appunto degli assessori le abbiamo sentite. Tu hai, se ho ben capito, delle anticipazioni su quello che dovrebbe essere il testo che domani, su cui domani si confronteranno le regioni e il governo, e quindi il ministro Azzolina? Allora, sì, diciamo su una parte dei testi, perché il testo, quello base, le linee guida di cui abbiamo parlato anche ieri e di cui abbiamo scritto sul giornale, dovrebbe restare sostanzialmente immutato, quindi sì, molto generico a sentire tutti i protagonisti. L'elemento in più che dovrebbe arrivare sul tavolo è un nuovo documento del Comitato Tecnico Scientifico, quindi diciamo da parte dei medici, che fisserà, aggiornerà o meglio i paletti rispetto a quelli di fine maggio, ribadirà che la distanza è di un metro, l'ha detto l'assessore Grieco che abbiamo fatto sentire prima, un metro da bocca a bocca, quindi questo sarà il parametro, le classi bisognerà ridisegnarle sulla base di questo, di questa distanza. Dopodiché se a settembre, questa forse l'elemento più interessante mi sembra questo, se a settembre il contagio resterà sotto controllo, si potrà pensare di rivedere l'obbligo di mascherina per tutti i ragazzi per tutto il giorno, soprattutto alle elementari. Quindi forse alle elementari si farà un bagno di realtà e ci si renderà conto che sarà complicatissimo. Ma tanto io non voglio polemizzare sul fatto che gli stessi ragazzini poi sono nei parchi intanto che la scuola non c'è stata e si vedono più o meno in sicurezza, ma adesso non voglio tornare su questo, però tu ci stavi dicendo che già l'indicazione del Comitato Tecnico Scientifico di un metro di distanza dovrebbe essere poi lo strumento per iniziare a ragionare sulla disposizione delle classi. Lasciamo stare se poi a settembre, come io mi auguro chiaramente, verrà eliminato l'obbligo di mascherina nelle classi, però perché quello che chiedono presidi e assessori è di avere qualche indicazione più specifica. Scusami Eugenio, però io ti devo chiedere una cosa. Ma il fatto che il ministro Azzolina, ieri l'abbiamo sentita parlare dell'importanza della reintroduzione del voto in educazione civica, che ci mancherebbe, non si stia esponendo, e anche qui il CTS, va bene il CTS, tutti abbiamo seguito i comitati tecnici scientifici per la riapertura di bar, di ristoranti e quant'altro, però poi diciamo, i ministri e la politica deve avere anche la capacità di sintesi, di iniziare a dire bene, noi ha ascoltato Conte, voglio dire, ha anticipato l'apertura di bar, ristoranti e parrucchiere dal 3 giugno al 18 maggio, decisione politica, non del CTS. Ecco, tu ti sei fatto un'idea di perché il ministro Azzolina sia così timida, voglio dire, usare questo termine così non dico altro, nell'esporre anche una sintesi politica? Allora, la mia idea è che la ministra Azzolina è in difficoltà politiche che derivano anche dalle difficoltà dell'intera maggioranza, dell'intera compagine di governo, e c'è anche una difficoltà comunicativa. L'impressione che ho io è che non riesce a frenare la fuga di informazioni che quotidianamente c'è, quindi si va dietro all'anticipazione, dopodiché viene smentita il giorno dopo e questo crea caos. Poi lasciamelo dire, io vedo comunque un gioco delle parti da parte di tutti. Abbiamo sentito i presidi che hanno rivendicato per anni, giustamente, aggiungo, l'autonomia scolastica. Nel momento in cui l'autonomia scolastica diventa il perno, non va bene, ma perché c'è un tema non risolto che è la loro responsabilità. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Questo è un nodo non sciolto. I sindacati oggi tornano a parlare di privatizzazione della scuola. Era qualche anno che io non lo sentivo. Anche loro sperano di ottenere qualche assunzione in più, quella che non sono riuscita a ottenere qualche settimana fa quando si discuteva del decreto scuola in Parlamento. Quindi metti tutto questo insieme e arrivi alla situazione attuale, dove c'è però un punto che forse tutti i protagonisti hanno perso di vista, che a differenza del passato, aver tenuto i ragazzi a casa per mesi ha portato tutte le famiglie a riaprire gli occhi sulla situazione della scuola. E quindi, cioè, non è più uno scontro politico, non è più una battaglia corporativa, è la questione delle questioni probabilmente al momento. Sì, sì, anche perché con massimo rispetto per tutte le categorie produttive che stanno soffrendo, almeno quelle hanno riaperto, qui ancora no. Dopodiché sono d'accordo che poi ci sia un gioco delle parti anche appunto nei sindacati, in parte anche nei dirigenti scolastici, nella loro responsabilità. Devo dire che il viceministro Ascani, nostro ospite, ha detto: ci rendiamo conto che c'è un danno di consenso politico nel modo in cui viene gestita la scuola. Io penso però, scusami, che poi anche la personalità abbia un ruolo, e voglio dire, non ho chiesto le dimissioni del ministro Azzolina perché mi sta antipatica, ho detto semplicemente che se una persona si rende conto che non è in grado di fornire quella sintesi politica e quella spinta anche che vada oltre le posizioni dei singoli, la prudenza del CTS, gli interessi corporativi dei sindacati, la paura dei dirigenti, però poi tu hai il ruolo politico per questo, perché sennò dov'è la novità? E questo mi sembra che manchi. Stia attento anche il governo Conte, perché ripeto, sul consenso non si crea solo sull'economia, si crea anche sulla vedere l'Italia unico paese in Europa che non ha ancora capito come riaprire le scuole, mentre gli altri li hanno già riaperte. Vedremo domani la giornata, vedremo di capire se si arriverà a qualche punto di sintesi oppure no. Intanto grazie anche a Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.